edizione. Sono le 6 e 16 minuti, di nuovo una buona giornata da Simone Spezzi. Iniziamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che trovate oggi in edicola e anche quelli che non sempre ci trovate, ossia quelli stranieri. E iniziamo oggi però dalla Stampa, perché? Per due motivi. Innanzitutto perché la scelta di un'apertura molto diversa dagli altri, seppure il titolo forte al centro della pagina, quasi al centro della pagina, sia 30 ragazze per il Premier, quindi il tema resta quello delle intercettazioni, titola la Stampa, anche perché è una storia torinese, ma non solo, ma perché è una storia comunque che farà discutere. Il titolo è: via la figlia perché anziani, il papà 70 anni, la madre 58, la bimba 16 mesi e la piccola verrà data in adozione. Il tutto accompagnato da un commento di Carlo Rimini che si intitola esplicitamente il confine sottile con lo stato etico. E apriamo con la Stampa anche perché sotto questo titolo sulle 30 ragazze per il Premier, che è un po' il tema che domina tutte le prime pagine dei quotidiani, tra i principali quotidiani è quello decisamente più duro. Se considerate che il titolo dell'editoriale del direttore Mario Calabresi è "L'Italia merita qualcosa di meglio" e il "Buongiorno" di Massimo Gramellini, tutti i giorni taglio basso sulla Stampa, si intitola "Fatelo scendere". A centropagina troviamo anche una foto di Sarkozy e Cameron in trionfo a Tripoli. La folla festeggia i due leader, ma la star è il francese che dice: vi aiuteremo a prendere Gheddafi. E naturalmente si parla anche della questione delle banche centrali. Le banche centrali al capezzale d'Europa scendono in campo per soccorrere il sistema bancario in panne per la crisi finanziaria europea. Da segnalarvi sempre dalla Stampa sul tema delle intercettazioni, delle nuove intercettazioni, che c'è veramente di tutto, tra cui Sabina Began: organizzai una cena con Abramovic per far tornare Sheva. E ancora, aiutai Giampi, nel memoriale c'è Berlusconi che dice: aiutai Giampi, poteva uccidersi. Veniamo al Sole 24 Ore. L'apertura è dedicata all'iniezione di liquidità da parte delle banche centrali nel sistema, liquidità in dollari, garantiti fondi in dollari per tutto il 2011, appunto, agli istituti di credito europei. Il coordinamento tra BCE e Fed e altre tre autorità monetarie ridà ossigeno alle borse. Milano più 3,5%. Domina la prima pagina anche una foto del amministratore di Oswald Grubel, che è l'amministratore delegato di UBS. La vicenda ormai la conoscete perché gira da ieri mattina. Un trader avrebbe di fatto tentato di frodare la banca per 2 miliardi di dollari, avrebbe fatto perdere all'istituto 2 miliardi di dollari con operazioni non autorizzate. Un uomo sospettato di essere l'autore di tutto ciò, appunto un trader di UBS, Kweku Adoboli, 31enne del Ghana, è stato arrestato ieri. Questo è il titolo principale, ma quella che tecnicamente è l'apertura, quindi sulla sinistra della prima pagina del giornale, è dedicata a Confindustria, che dice: Italia verso la crescita zero, tasse mai così alte. E due commenti: uno a firma di Luigi Guiso, identificato il tema, ora la cura giusta, e l'altro di Luca Paolazzi, che tra l'altro è direttore del centro studi di Confindustria: una terapia d'urto ma subito. A centropagina vi segnaliamo anche quest'altro titolo: scatta domani, così tra l'altro lo sapete, l'aumento dell'IVA al 21%. E sempre sui temi della manovra, Napolitano dalla Romania: non bisogna farsi scoraggiare dalle difficoltà, l'Europa può fare molto. Veniamo al Corriere della Sera. L'apertura è: le nuove carte su escort e favori, questo è il titolo principale. 100.000 intercettazioni, i legali di Berlusconi dicono: sono solo serate conviviali. Inchiesta di Bari, 8 indagati. Su Unipol, il GIP di Milano ritiene che il capo del governo vada processato. I due pezzi che affiancano tutto ciò sono la Procura di Napoli, quelle domande già pronte per il Cavaliere, a firma di Giovanni Bianconi, e il tema delle garanzie al Premier: niente frasi che fanno danni all'estero. Poi naturalmente un pezzo di Fiorenza Sarzanini sul tema più specifico dei racconti delle intercettazioni. L'editoriale stamattina sul Corriere della Sera è a firma di Sergio Rizzo e parla delle province intoccabili, un tema che abbiamo già toccato nei giorni scorsi. Anche qua centropagina, foto notizia su Cameron e Sarkozy e poi servizi all'interno. E poi naturalmente l'intervento di BCE e Fed in soccorso delle banche, che rassicura e spinge le borse. Segnaliamo anche un'intervista di Angela Frenda alla moglie di Italo Bocchino, I tradimenti e il mio dolore. La Repubblica, titolo, è tutte le escort di Berlusconi, Bari, 100.000 intercettazioni, il premier a Tarantini, chi mi porti stasera? I due pezzi che affiancano tutto ciò sono di Francesco Merlo, Il codice segreto della maleficenza, e Il retroscena di Liana Milella, I nastri non devono uscire, farò la legge bagaglio. Titolo importante anche per la visita di Cameron e Sarkozy e per i mercati in campo Fed e BCE, dollari per salvare le banche. E si dà spazio anche alla notizia che vi davamo poco fa nel giornale radio, la polemica, il divano rosso spaventa il potere e la Rai cancella la Dandini. Da segnalare anche questa vicenda che mette in prima pagina Repubblica con una piccola foto e riguarda il reparto dei Nox. In sostanza si parlano di episodi di nonnismo, si parla di episodi di nonnismo molto gravi dopo un esposto in merito a un sistema di potere interno alla caserma. Veniamo al Messaggero. Escort e appalti, le nuove accuse, 100.000 intercettazioni, Berlusconi a Tarantini, chi mi porti? Commento a firma di Carlo Fusi sul tema l'immagine del paese. E poi sesso per Sanremo, ma l'Arcuri rifiutò, con una grande foto Emanuele Arcuri. Banche centrali in azione, il titolo di centropagina. C'è anche naturalmente la visita storica di Cameron e Sarkozy. E poi la notizia che vi davamo nel giornale radio, la svolta vince in Danimarca, svince Helle la rossa. Un caso da Roma che riguarda la sanità, vada a casa, aperte questo è tra virgolette, lei si sente male e partorisce una bimba morta. E poi un titolo dedicato alla Lazio, per la Lazio solo un pari in Europa. Veniamo ad un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani esteri, iniziando da quelli economici, vista quella che è stata la giornata di ieri. Il Wall Street Journal dice che lo sforzo delle banche centrali ricorda il 2007, il momento nel quale si era in agosto, lo ricorderete ad occhi di tutti, si palesò la crisi ai mutui subprime appena un anno dopo. Ieri tra l'altro era il terzo anniversario, la caduta di Lehman Brothers. Il Financial Times dedica l'apertura alla vicenda di UBS, quella di cui vi dicevamo poco fa, la perdita di 2 miliardi di dollari. C'è anche un commento a firma di John Gepper intitolato colpa del trader o della banca, c'è un'esplicita un'accusa piuttosto esplicita all'amministratore delegato di UBS. Non sembra, scrive Gepper, che Oscar Grubwald abbia lavorato per correggere la natura incline agli incidenti di quella banca. I giornali francesi, sia Figaro che Le Monde che Libération, tutti e tre dedicano l'apertura non alla visita del presidente a Tripoli, ma al dibattito tra i candidati alle primarie socialisti. Ieri c'è stato questo primo dibattito appunto tra i candidati alle primarie socialisti. Secondo un sondaggio, François Hollande continua ad essere il super favorito, 44% delle preferenze, seguito dalla Aubry, 31%, molto più indietro Ségolène Royal al 12%, che tra l'altro ha ribadito ieri quello che aveva detto sabato, ossia ha proposto, il che ci ricorda qualcosa naturalmente, un contratto con i francesi in 10 punti. Dal lato dei quotidiani britannici stanno tutti seguendo abbastanza attentamente la vicenda della miniera di carbone in Galles. Cosa è successo? I 7 minatori sono rimasti intrappolati 90 metri sottoterra mentre cercavano di drenare i cunicoli dell'acqua, 3 sono riusciti a trarsi in salvo, ma 4 restano ancora bloccati. È in corso anche in queste ore, tra l'altro, una complessa operazione di soccorso messa in piedi dalle autorità. Sui singoli quotidiani sempre britannici, il Guardian apre anche qua apertura economica tra la vicenda UBS e le banche centrali. Vi segnaliamo una storia interessante dall'Independent, che racconta che il Parlamento britannico, ha votato una parte molto controversa di un provvedimento sulla giustizia. Si prevede di fatto l'eliminazione parziale del gratuito patrocinio, ossia del diritto di chiunque sia arrestato ad essere difeso anche da un legale d'ufficio. Naturalmente non è un vero e proprio annullamento, che probabilmente non sarebbe stato possibile, però fatto sta che d'ora in poi e di volta in volta dovrà decidere una nuova figura, che è il direttore, una sorta di direttore del supporto legale. Dalla Spagna vi segnaliamo due aperture diverse: quella del Mundo, che è dedicata alla vittoria del centrosinistra in Danimarca, quella di El País all'azione delle banche centrali, e chiudiamo con un'ultima segnalazione dal New York Times. Il New York Times è entrato in possesso di un libro di un ex giornalista del Wall Street Journal, che ha scritto un libro sulla situazione alla Casa Bianca tra i consiglieri economici, e racconta che la risposta del presidente Obama alla crisi è stata intralciata dallo stesso staff della Casa Bianca, spaccato da rivalità interne. Racconta persino di un Geithner, il segretario al tesoro, che avrebbe ritardato volontariamente una serie di provvedimenti perché non era d'accordo con il presidente. Prima edizione. 6:35 minuti e 30 secondi, è il momento d'Italia in controluce. Oggi Daniele Biacchesti ci parla di immigrazione. Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesti, questa è la prima edizione di Italia in controluce. Un gruppo di immigrati sta protestando in questi giorni, in queste ore, proprio anche in questo momento a Milano, per essere stati esclusi dalla sanatoria che avrebbe dovuto metterli in regola. Con striscioni, volantini, denunciano il ginepraio burocratico che li costringe alla clandestinità. Allora, i ragazzi che sono su sono persone che fanno parte di coloro che hanno presentato la domanda sanatoria truffa. Due anni fa, al 2009, hanno presentato delle domande, finora non ci sono risposte o magari sono state rigettate perché avevano un foglio di via. Questa sanatoria l'abbiamo chiamata sanatoria truffa perché hanno escluso gli operai normali, coloro che lavorano in cantieri, che fanno le pulizie, hanno detto solo gofle e badanti, perciò hanno già discriminato, che adesso siamo qua, resistiamo e vogliamo risposte concrete dal governo e non solo, da una solidarietà dal popolo italiano, perché lo conosciamo che è solidale. Ma io già arrivato al convocazione, dopo richiesta da 10 giorni, ti dico alla 10 ottobre in 2009, però il padrone non è andato con me, fino adesso non ce l'ho permesso soggiorno. Purtroppo tanti datori di lavoro, con quello che chiedono il governo italiano, tanti non sono venuti perché chiedono tanto, magari il datore di lavoro, uno che ha sfruttato lui, che l'ha, non lo so, l'ha promesso un permesso giorno, le assume per dividare, non so, 4.000 o 5.000 euro. Arrivata la convocazione, lui è sparito, questo detto datore di lavoro. Perciò lui si trova adesso, dopo 2 anni, pagando tutti i soldi al datore di lavoro, più allo Stato 500 euro, però intanto adesso lui è clandestino. Ed è 7 anni qua. Io secondo me che la clandestinità non va bene per nessuno, sia per il popolo italiano sia chi per l'immigrato. Loro chiedono solo di vivere nella luce di soli. Mira la prima edizione di Italia in controluce per quest'oggi 16 settembre. Ritorniamo alle 13:30 oggi con Scuola in controluce di Piera Ceci. Sono le 6:38, vi abbiamo già raccontato nei giornali radio della trionfale visita di David Cameron e Nicola Sarkozy in Libia. Di questo parliamo, ma facciamo innanzitutto il punto sulla situazione dal lato militare, perché insomma nella notte ci sono state delle evoluzioni importanti. Buongiorno dalla redazione alla collega Adriana Fracchia. Buongiorno. Buongiorno Adriana. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il quadro qual è? Sono a Sirte i ribelli? Sì, dopo le minacce e gli ultimatum, il momento della battaglia è arrivato anche per Sirte. Ieri lo hanno dichiarato le stesse forze del Consiglio Nazionale di Transizione. È stato infatti scagliato il primo assalto di terra contro un obiettivo meno strategico di Tripoli, che è stata conquistata a fine agosto, ma di grande portata simbolica per gli insorti. Qui infatti nel 1942 è nato Gheddafi, che ancora ancora l'altro ieri si appellava alla comunità internazionale perché fermasse l'attacco alla città. Nel tardo pomeriggio di ieri diverse fonti hanno riportato che le forze del CNT erano penetrate in città, testandosi in periferia, dove ci sono stati scontri con i lealisti. Allora Adriana, che cosa controllano in questo momento, da quel che sappiamo, i ribelli? Allora, le milizie controllerebbero ormai tutti gli ingressi della città, avrebbero circondato anche la base aerea, che si trova immediatamente a sud di Sirte, senza tuttavia prenderne ancora il controllo. Ad indebolire le forze lealiste negli ultimi giorni anche i raid aerei della NATO, che a Sirte hanno distrutto postazioni lanciarazzi, sistemi radar, mezzi corazzati, rendendo così più facile il compito delle truppe di terra. Solo nell'ultima settimana, come ha spiegato il generale francese della NATO Tesnier, l'alleanza ha effettuato oltre 90 attacchi aerei in tutto il paese. E tuttavia, aggiunto il militare, circa il 15% delle forze di Gheddafi sono ancora operative. Il timore del CNT è che ora Gheddafi stia organizzando un gruppo di resistenza e di guerriglia nelle zone meridionali della Libia. Una preoccupazione espressa anche dal presidente del CNT, Mustafa Jalil, che in un'intervista alla BBC ha chiesto proprio alla comunità internazionale di inviare più armi in modo da poter prendere il controllo delle aree ancora fedeli a Raiz. Tutto questo per quanto riguarda appunto il fronte militare. Sì, fronte militare, ci sembra di capire a questo punto la situazione sia tutt'altro che risolta, naturalmente anche dalle parole di quel che dice Jalil. Ieri però, come dicevamo e come raccontavamo, è stata una giornata importante anche per la visita di Cameron e Sarkozy. C'è chi titola sui quotidiani anche italiani oggi: Cameron e Sarkozy in Libia da vincitori. Adriana, com'è stata questa visita? Sì, come dicevi appunto, il presidente francese Sarkozy, scatenato tra una folla che lo acclamava, e anche il premier britannico David Cameron, sono stati accolti con tutti gli onori per questa loro prima visita nella Libia del dopo Gheddafi. A questa folla clamante ha detto: vi aiuteremo a trovare e a catturare Gheddafi. Dietro di loro, dietro Cameron e Sarkozy, il filosofo Bernard Henri Lévy, che a detta di molti sarebbe il grande regista di tutta l'operazione che ha condotto appunto il presidente francese e premier britannico in Libia per raccogliere il ringraziamento del popolo. Sulla visita lampo, la prima dei due massimi dirigenti di paesi della coalizione, dichiaratisi capofila dell'impegno militare per liberare la Libia dal regime di Gheddafi e dell'alleanza col CNT, il Ministero degli Esteri italiano ha voluto però fare una puntualizzazione. L'Italia è stato il primo paese europeo ad aprire un consolato a Bengasi e il ministro Frattini è stato il primo ministro degli Esteri europeo a recarsi in visita a Bengasi. Questo con un pizzico forse di polemica. Prima di lasciare Tripoli, conferenza stampa dei due leader europei accanto ai nuovi leader libici, Sarkozy ha detto: Gheddafi è un pericolo, l'impegno della NATO non è concluso, c'è un lavoro da finire. E a Bengasi, appunto, il bagno di folla più atteso nella città simbolo della rivolta. A fianco del capo degli insorti, Sarkozy ha gridato: vi chiediamo una cosa, crediamo nella Libia unita e non nella Libia divisa. Viva la Libia, viva l'amicizia tra la Francia e la Libia. Ed è tutto, Simone. Grazie dunque ad Adriana Fracchia, buona giornata e buon lavoro. Buongiorno Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani. Buongiorno a voi. Allora, ci eravamo lasciati, se non sbaglio, o venerdì o giovedì scorso, e ci avevi detto: quando usciranno le nuove intercettazioni per il Cavaliere sarà finita. E ora? Insomma, eravamo stati profeti, nel senso che mi sembra oramai la situazione impantanata e, come dice giustamente l'editoriale della Stampa di oggi, ci vorrebbe qualcosa di meglio. Tuttavia non sarà Trichet a mandare via Berlusconi, non sarà Napolitano, non c'è nessuno che oggi possa mandarlo via, se non una persona che si chiama Umberto Bossi e che è alla vigilia di un'iniziativa pubblica a Venezia, e da lì ci si attende qualche novità probabilmente, viste le dichiarazioni di ieri di esponenti come Salvini, che hanno detto che l'accordo strategico nel centrodestra è finito. Accordo strategico con il centrodestra finito, altri segnali di nervosismo, tra cui insomma un pezzo scritto da Panorama sulla moglie di Umberto Bossi, sul tema sul quale è intervenuto ieri Calderoli, dice: carognata a Bossi, il premier intervenga. Tu dici che insomma un'altra volta la pressione delle inchieste non può smuovere più di tanto il Cavaliere. No, siamo finiti in un cul-de-sac, o come si dice in filosofia, in una aporia. Non è possibile. Il governo ha appena avuto la fiducia in Parlamento, il paradosso è questo, l'aporia è questo. È un governo pienamente legittimato dai numeri, e quindi il presidente Napolitano ha ben spiegato che egli non può forzare i dati di realtà, ma è un governo che ha il minimo della credibilità politica, in assoluta decrescita nei sondaggi d'opinione e con grandi imbarazzi complessivi. La novità è che questo imbarazzo ora si percepisce anche all'interno del PDL. Su Affari Italiani abbiamo sentito 4 esponenti importanti in ordine proprio alla difficoltà di intestarsi anche le cose buone che eventualmente potessero fare. La manovra economica in qualche misura è stata positiva, tempestiva, quindi sarebbero da lodare questi parlamentari del PDL, ma non possono, perché le vicende di Bari, le vicende di import ed escort coprono ogni possibile visibilità. Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, in 40 secondi ti chiedo, c'è chi nel PDL, che sia un dietrologo oppure no, dice signori, qua è un attacco concentrico, insomma ci sono 3 procure che sono uscite allo scoperto nel giro di 4 giorni, Napoli, Bari, infine anche Milano con la vicenda delle intercettazioni Unipol. Sì, questo è vero, non c'è dubbio che su Berlusconi la magistratura si è accanita, usiamo pure questa espressione, ma si è accanita non inventando le cose, questo è il punto. Vero che molte procedure sono state un po' stravolte, vero che spesso le competenze territoriali sono al limite del possibile, vero che appunto questa vicenda di Napoli, di Tarantini, sembra essere inconsistente, e Berlusconi parte lesa che adesso finisce imputato, quindi questo è indubbio, ma gli scheletri ci sono e i magistrati li stanno tirando fuori. Uno potrebbe dire non è il momento, il paese è in crisi, state buoni, prevalga la ragion di Stato, ma questo è un altro tema. Forse da Napolitano qualche accenno alla esigenza di preservare gli equilibri complessivi è arrivato, ma i magistrati sono indipendenti, vanno avanti, gli scheletri ci sono, e a volte appunto anche travolgendo. Sui fatti di ieri io ho scritto un'analisi sulla vicenda Unipol, la scalata alla BNL, lì sì, Berlusconi è stato coinvolto col suo ingresso in quella vicenda formale, seguito da Belpietro e da Paolo Berlusconi. La vicenda Unipol secondo me diventa l'emblema di una classe dirigente affaristica. Chiarissimo. Chiarissimo, grazie Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, buona giornata, la viabilità e poi le anticipazioni della rassegna con Alessandro Miller. Prima edizione. Eccoci qua con Alessandro Milan. Alessandro, buongiorno. Che cosa indovina ci segnali? Un po' di cosa sono pieni i giornali oggi. Fammi indovinare, intercettazioni. Prime pagine, forse. Uno prende o Playboy o i giornali di oggi più o meno e trova le stesse cose. Per esempio, le foto di bellissime ragazze. Vabbè, ti dico solo il clima. Il Fatto Quotidiano mette in prima pagina una testimonianza, una testimone, noi leggiamo da quello che c'è. Silvio infilava il crocifisso tra le tette di Nicole, Minetti. Dove Nicole questo... è Nicole Minetti, sì, naturalmente. Cioè, il clima, no, adesso la questione è molto seria. Il clima è questo, sia di quello che sarebbe successo, sia di quello che producono oggi i giornali in gran parte. Altre cosine. No, una storia che mi ha incuriosito, una storia è molto diversa ovviamente, è questa, proviene da Torino, una sentenza shock del Tribunale dei Minori di Torino, troppo anziani ed egoisti per essere bravi genitori, la figlia si è data in adozione. Due genitori, sì. Il padre di 70 anni, lei di 58 credo, che hanno avuto una figlia molto tardi, non sono dei buoni genitori perché non hanno previsto il futuro di questa figlia che potrebbe rimanere orfana presto, e quindi il tribunale gli ha tolto la figlia dichiarandola adottabile. È una vicenda che ovviamente suscita molte perplessità. Molte perplessità e molti interrogativi, anche di questo parleremo tra poco in 24 mattino con Alessandro Milan. Io ringrazio Peter Besca per in regia, Alessandro Longoni in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Il giornale, ci risentiamo più tardi con il giornale radio. Prima edizione torna lunedì con Anna Migliorati.